E se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Secondo un rapporto pubblicato di recente, il 70% della popolazione mondiale vive in paesi dove non esiste la libertà religiosa. E in testa alla classifica ci sono i paesi di Medio Oriente e Nord Africa. La libertà religiosa non è un diritto umano acquisito nella maggior parte dei paesi del mondo. Anzi, circa il 70% della popolazione globale vive in nazioni che praticano forme più o meno severe di limitazione della libertà di culto. Il Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life ha pubblicato uno studio in questo senso che non lascia spazio a dubbi. La ricerca ha utilizzato una ventina di parametri per stabilire una sorta di gradualità nel livello di libertà religiosa concessa dai governi. Sono infatti queste due le aree del mondo in cui non si può praticare liberamente la propria fede, e va da sé che si tratta di regioni a grande maggioranza di fede musulmana. C'è poi da considerare che proprio i cristiani, come ha sostenuto di recente la Santa Sede, fanno parte del gruppo religioso che soffre maggiormente a livello mondiale per le persecuzioni cui sono sottoposti. In ogni caso, la ricerca dell'Istituto Americano raccoglie una casistica relativa a 198 paesi. In quasi un terzo di questi, 64 nazioni, sono imposte severe limitazioni alla libertà religiosa. Si tratta della porzione del pianeta, comprendente anche Cina e appunto India, nella quale si concentra la gran parte della popolazione mondiale. La ricerca mette in luce che l'Arabia Saudita, l'Iran, l'Uzbekistan, la Cina, l'Egitto, il Myanmar, le Maldive, l'Eritrea, la Malesia e il Brunei sono nazioni in cui le limitazioni alla libertà religiosa sono particolarmente gravi. Su un altro versante troviamo paesi come il Brasile, il Giappone, gli Stati Uniti, l'Italia, il Sudafrica e la Gran Bretagna, nei quali invece si registra un grado alto di libertà di culto. C'è poi un altro dato particolarmente significativo: il delinearsi di una sorta di differenza fra leggi scritte, e quindi spesso ordinamenti costituzionali, e situazione reale. In 76 dei paesi presi in esame esistono infatti norme che tutelano la libertà religiosa, ma sono solo 53 i governi che rispettano realmente tale diritto. Fra l'altro, a parte l'impostazione generale del problema, la casistica appare piuttosto frastagliata a causa della diversità di questioni che si incrociano fra loro. Intanto la comparsa negli ultimi decenni di gruppi fondamentalisti o estremisti legati alla religione ha indotto governi e autorità a intraprendere politiche restrittive. Poi c'è l'opera del fanatismo religioso contro le minoranze all'interno di uno stesso paese, questo anche nel caso in cui i governi in questione siano, almeno nella forma, tolleranti. Quindi vanno prese in considerazione ancora altre realtà, in cui le restrizioni governative si sommano all'azione di movimenti religiosi locali contro le minoranze. E allora i problemi maggiori si riscontrano in paesi come l'Arabia Saudita, il Pakistan e l'Iran, dove si concentrano diversi e convergenti fattori. Infatti, alle politiche restrittive messe in atto dai governi vanno ad aggiungersi atti discriminatori e aggressioni di gruppi e movimenti. In questo caso, ha detto Timothy Shah, docente all'Institute on Culture, Religion and World Affairs alla Boston University, spiegando alcuni degli aspetti dell'indagine, i due fenomeni tendono a svilupparsi assieme. Qualche volta le restrizioni dei governi sono ispirate proprio dai gruppi fondamentalisti, ma invece di contribuire a fermare le ostilità tra gruppi religiosi, le azioni delle autorità tendono a inasprire ulteriormente la situazione. Altro scenario è quello di nazioni come la Nigeria o il Bangladesh, dove i governi sono più aperti sul diritto alla libertà di culto, ma i conflitti religiosi all'interno della società sono invece ben presenti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Peloso, Il 70% degli uomini vive in paesi senza libertà religiosa, dal Riformista del 24 dicembre. Per molti datori di lavoro, il periodo di assenza per maternità delle proprie lavoratrici viene considerato un costo economico e un momento di difficoltà per l'azienda. E molte donne finiscono per vivere con disagio quello che dovrebbe invece essere un evento socialmente accettabile. Quali sono gli effetti della maternità sulle donne che lavorano? Due sono le possibilità che sembrano palesarsi in coincidenza con l'evento. La prima riguarda quelle donne che in letteratura vengono definite lavoratrici scoraggiate, donne che decidono di lasciare il lavoro per l'impossibilità di conciliare maternità e professione o perché sono state licenziate o comunque invitate ad uscire, 5,6%, allo scattare della gravidanza. Il 25% delle donne del Sud e il 19% di quelle del Nord si ritrova disoccupata dopo la nascita del primo figlio. In Italia, il tasso di abbandono del lavoro entro un anno dalla nascita del bambino è pari a 1 su 8. Difficile dire quanto la scelta di lasciare il lavoro sia voluta fino in fondo o obbligata. Il problema è che quando tutto quello che guadagni viene utilizzato per pagare nido e babysitter e in più si deve fare i conti con i problemi della conciliazione, inevitabilmente molte donne si arrendono. La seconda strada è quella che viene intrapresa dalle madri che decidono di continuare a lavorare. Anche in questo caso, però, il quadro non è roseo. Gli effetti negativi più citati sono la difficoltà nel fare carriera e il differenziale salariale. Se avere figli talvolta diventa inconciliabile con il desiderio di lavorare, il quadro diventa ancora più fosco quando entra in gioco il desiderio di fare carriera. Le madri che decidono di non rinunciare al proprio sviluppo professionale denunciano le difficoltà che hanno dovuto affrontare per arrivare a ottenere un giusto riconoscimento delle proprie competenze, per acquisire o mantenere il proprio ruolo. Il valore del presenzialismo piuttosto che quello della produttività, la rigidità degli orari di lavoro, i fenomeni di delocalizzazione e di internazionalizzazione dell'economia tendono a penalizzare le carriere femminili per la minore disponibilità delle lavoratrici madri a temporanei trasferimenti all'estero. Rispetto a questo tema, si registra inoltre una forte differenziazione di genere. Se avere dei figli sembra dunque ostacolare lo sviluppo professionale delle lavoratrici, per gli uomini accade esattamente l'opposto. Riescono a fare carriera e sono più agevolati nel trovare un posto di lavoro rispetto ai colleghi senza figli. L'altra grande difficoltà vissuta dalle madri lavoratrici riguarda il pay gap. Le donne senza figli percepiscono una retribuzione superiore alle colleghe con figli e lo stesso vale per le separate, divorziate o single rispetto a quelle coniugate o conviventi. Il tema non è solo italiano. Una ricerca condotta nel Regno Unito rivela che il differenziale salariale tra i generi cresce drasticamente con la nascita del primo figlio e le possibilità di carriera delle donne madri diminuiscono. Da un'altra ricerca condotta confrontando i diversi paesi europei emerge che la maternità si accompagna a una riduzione del salario. Molti sono i casi di mobbing che vengono citati al rientro dal periodo di astensione obbligatoria: assegnazione di nuovi compiti o mansioni, cambio di ufficio, ridimensionamento dei carichi di responsabilità, atteggiamento diffidente da parte dei colleghi, mancanza di fiducia da parte del capo. Pochi sono i casi di madri che sono riuscite a diventare professioniste di successo. Di solito si tratta di donne realizzate che trovano soddisfazione nel proprio lavoro e che riescono ad organizzarsi per essere efficienti e che hanno un supporto valido in famiglia. Il ruolo del marito, infatti, risulta essere fondamentale dalle testimonianze riportate. Se le donne di successo hanno dovuto cambiare il loro modo di essere mamma e mogli, lo stesso hanno dovuto fare gli uomini che le affiancano. Un'indagine condotta nel 2005 dalla Camera di Commercio di Milano rivela che da un lato le donne sono considerate dalle aziende come risorse con grandi potenzialità, più affidabili e determinate. A penalizzarle, per 8 intervistati su 10, è l'evento della maternità. Dopo la nascita del figlio, le donne sarebbero meno motivate, meno disponibili a causa delle troppe assenze per le malattie del bambino. Ovviamente è difficile dire quanto questo sia un pregiudizio o quanto rifletta dati di realtà. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Simona Cuomo e Adele Mapelli, Maternità, quanto ci costi? Guerini Associati Editore, 144 pagine, 18 euro. Dal 2003 al 2007 solo un giovane su 5 tra i 18 e i 39 anni ha lasciato la casa dei genitori. Questo dato conferma che l'Italia è un paese di mammoni che non vogliono abbandonare la propria casa. Sorprende però che in tempi di crisi economica si lasci il nucleo familiare non perché si è trovato un nuovo lavoro, magari meglio retribuito, ma per sposarsi e mettere su famiglia. Che cosa spinge i giovani, o anche i non più tanto giovani italiani, ad uscire finalmente dalla casa di mamma e papà? Forse la voglia d'avventura? O magari il desiderio di fare esperienze di lavoro all'estero? Niente di tutto questo. La maggioranza si decide ad abbandonare il nido soprattutto per sposarsi. Più o meno come accadeva mezzo secolo fa, anche ora in tempi di crisi il matrimonio conviene e diventa l'unica via d'uscita per i giovani in cerca di indipendenza. È un'indagine dell'Istat a rivelare il volto tradizionalista di una società piuttosto refrattaria ai cambiamenti, se non addirittura immobile. L'Istituto di Statistica ha svolto un'indagine comparativa su un campione di 10.000 persone, confrontando i dati rilevati tra il 2003 e il 2007. In questo arco di tempo, i giovani, tra i 18 e i 39 anni, che hanno lasciato la famiglia per intraprendere una vita autonoma, sono stati soltanto il 20,8% del totale. Su 100 che nel 2003 avevano dichiarato che di lì a poco sarebbero volati via dal nido familiare, soltanto la metà ha confermato quelle aspettative. Quelli che invece avevano già ben chiaro in testa che sarebbero rimasti a casa, nell'83,8% dei casi lo hanno fatto. Interessante poi vedere che la molla principale per salutare mamma e papà resta quella del matrimonio, 43,7%, percentuale che sale al 57,5% nel sud e scende al 29,4% al nord, dove al primo posto fra i motivi di uscita c'è l'esigenza di autonomia. La permanenza prolungata dei giovani in famiglia è uno dei principali problemi del paese, osservano gli esperti dell'Istat. Fattori economici ed in particolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e al mercato abitativo da un lato e fattori culturali dall'altro sono fondamentali nella realizzazione delle intenzioni di uscita dalla famiglia di origine. Se si resta bamboccioni fino alla soglia dei 40 ed oltre, insomma, è principalmente per l'impossibilità di mantenersi, come dichiara il 47,8% degli interpellati, mentre il 44,8% confessa di stare bene così anche perché mantiene la propria libertà anche all'interno della famiglia d'origine. Sono le donne a sentire di più l'esigenza di lasciare il nido nel quale sono nate. Le persone dai 18 ai 39 anni che nel 2003 vivevano nella famiglia di origine erano poco più di 8.300.000, pari al 47,7% degli individui della stessa classe di età. Tra i maschi la percentuale raggiungeva il 53,5, tra le donne il 41,7. Dunque oltre 12 punti percentuali di differenza. Inoltre, tra i 30 e i 34 anni vivevano ancora presso la casa dei genitori 4 uomini su 10 e soltanto 2 donne su 10. Le condizioni economiche, ma anche il livello di istruzione, influiscono molto poi anche sulla decisione di avere figli. Sempre confrontando i dati del periodo 2003-2007, l'Istat rileva come chi possiede un'elevata istruzione abbia poi anche una propensione ad avere figli significativamente più alta nel triennio rispetto a chi è meno istruito. Un dato che riguarda in particolare le donne, dove 3 laureate su 10 hanno avuto un figlio rispetto a una donna su 10 con licenza dell'obbligo. L'indagine prende in considerazione sia l'intenzione inizialmente dichiarata, sia la sua realizzazione nell'arco temporale esaminato, rilevando così che la maggior quota di successo si riscontra tra quanti posseggono un'istruzione più elevata. Il 68,2% delle laureate e il 54,4% delle diplomate riescono a realizzare l'intenzione di avere un figlio nel triennio, mentre soltanto il 37,8% delle donne con licenza media riesce a realizzare quel desiderio di maternità. Non è differente la situazione, anche se si prende in considerazione la scelta degli uomini. Come per le donne, anche fra i maschi la quota di chi nel 2003 aveva intenzione di avere un figlio e l'ha realizzata nel triennio è più alta per i laureati, 54,2, seguiti dai diplomati 49,8 e da chi si è fermato alla licenza media 45,4. Anche l'occupazione influisce. Chi ha una posizione più prestigiosa e remunerativa decide più facilmente di avere figli. Sono dirigenti, imprenditori e liberi professionisti a presentare la maggiore propensione ad avere un figlio, 23,1, seguiti da direttivi, quadri e impiegati, 20,6, e da lavoratori in proprio, 18. Operai ed operai sono diventati genitori nel corso dell'ultimo triennio, soltanto nel 14,6% dei casi. Sorpresa, il matrimonio è diventato un affare, è il titolo dell'articolo di Francesca Angeli che abbiamo appena ascoltato, pubblicato su Il Giornale di martedì 29 dicembre. Letture di Radio 24. Secondo lo psicologo americano Daniel Goleman, una delle ragioni che hanno portato al recente crollo finanziario è stata la politica della falsità, l'incapacità di dire la verità, anche quando questa diventa scomoda. E spesso la mancanza di comunicazione tra il leader e i subalterni porta ad adottare una sorta di pensiero di gruppo nel prendere le decisioni. Come si è visto più volte, uno dei pericolosi paradossi della leadership è che le persone al vertice della gerarchia presumono spesso di sapere più di ciò che sanno davvero. Le cattive notizie sono inesorabilmente filtrate, per cui si creano vuoti di informazione potenzialmente disastrosi. Una ricerca, per esempio, ha rivelato che più alto è collocato un leader, meno possibilità ha di ricevere dai subalterni un onesto ritorno di informazioni sulla sua autorità. Comprensibilmente, coloro che lo aggiornano sono poco propensi a enumerare i suoi passi falsi. Così, chi ha più potere, ben presto non sa più in che modo sia percepito dagli altri e può diventare un cattivo ascoltatore, rigido e sordo, o altrimenti, incosciente dei propri limiti. L'abitudine di non informare il leader in modo accurato porta al pensiero di gruppo nelle decisioni. Un caso classico di pensiero di gruppo, descritto dallo psicologo di Yale, Irving Janis, è stato la decisione di John Fitzgerald Kennedy nel 1962 di tentare l'invasione di Cuba alla Baia dei Porci. Per mesi il presidente partecipò a riunioni quotidiane con un gruppo molto unito e terribilmente orgoglioso di superconsiglieri, tra i quali i capi dei servizi segreti, delle forze armate e del Dipartimento di Stato. Questi gli assicurarono che, in base ai loro rapporti di intelligence, una rete clandestina armata di dissidenti cubani avrebbe appoggiato gli invasori ribellandosi a Fidel Castro. Nessuno, d'altra parte, menzionò un accurato sondaggio di opinione, realizzato appena un anno prima, secondo il quale Castro aveva il sostegno della grande maggioranza della popolazione, né diede importanza al dissenso dei ben informati specialisti dell'ufficio cubano del Dipartimento di Stato. Un'altra idea chiave era che se l'invasione alla Baia dei Porci non fosse riuscita in pieno, la forza di invasione avrebbe potuto ripiegare sui monti delle Scambre e restarvi a piacimento. A quanto pare, nessuno osservò che tra la baia e la presunta sicurezza della Sierra correva una distanza di 80 miglia. Per settimane, fatti cruciali, che avrebbero fatto pendere la bilancia per il no all'invasione, non entrarono davvero nelle discussioni, pur essendo tutti noti a una e spesso più persone sedute intorno al tavolo decisionale. Quando lo sbarco alla Baia dei Porci si trasformò in un fiasco memorabile, uno scioccato John Kennedy si domandò come avesse potuto essere così stupido da mandare tanta gente allo sbaraglio. La risposta mai pronunciata era che involontariamente e in gruppo i suoi migliori consiglieri lo avevano condotto alla disfatta. Ogni volta che un gruppo molto unito è chiamato a una decisione importante, non sa accettare tutte le informazioni e valutarle con obiettività, rischia di prendere lucciole per lanterne. Il fantasma della Baia dei Porci si aggira intorno alla malaugurata decisione di un altro gruppo di consiglieri presidenziali, anch'esso particolarmente unito e orgoglioso. Un gruppo le cui premesse date per scontate, che Saddam Hussein cospirasse con Al-Qaeda, che l'Iraq detenesse un arsenale di armi di distruzione di massa, che gli iracheni avrebbero accolto i liberatori a braccia aperte, assomigliano sempre più alle bugie vitali. Le decisioni basate sul pensiero di gruppo rappresentano il lato negativo di una dinamica che qualunque organizzazione cerca di promuovere: la coesione e il senso di appartenenza. Il paradosso qui è che la stessa coesione, in grado di rendere molto efficaci simili gruppi, può trasformarsi in senso di superiorità e nell'idea di appartenere a un club di eletti. Ciò può portare i suoi membri a ritenere che il gruppo non possa fare niente di male e che l'interpretazione elastica delle regole per raggiungere certi scopi sia, nel suo caso, giustificabile. Lo stesso esagerato orgoglio di gruppo ha avuto un ruolo importante in molti dei deprecabili scandali economici recenti. Per questo, l'amministratore delegato di una grande banca di investimenti ha raccomandato che le società trasferiscano i leader pressappoco ogni 5 anni, limitando il loro potere e quello delle loro equipe di consiglieri. I veri leader imparano dagli errori, compreso essersi fatti accecare dal pensiero di gruppo. Per John Fitzgerald Kennedy, lo sbarco nella Baia dei Porci fu una terribile lezione su come non usare il potere. Avendo scoperto che il pensiero di gruppo poteva pervertire il processo decisionale, durante la crisi missilistica cubana del 1962, il presidente raccomandò ai suoi consiglieri onestà e spirito critico. I 13 giorni della crisi sono diventati un magnifico esempio di come un leader possa ricavare il meglio da una moltitudine di esperti e prendere decisioni solo dopo aver soppesato ciascuno dei loro contributi. Ricordò in seguito Robert Kennedy: il fatto che abbiamo potuto parlare, discutere, affermare, dissentire e poi ancora discutere fu essenziale alla scelta della rotta finale. Una rotta che evitò al mondo un conflitto mondiale con armi atomiche. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Daniel Goleman, Trasparenza, verso un'economia dell'onestà. Rizzoli Editore, 140 pagine, 17 euro. La minaccia terrorista torna a fare paura agli Stati Uniti d'America. La mente degli americani è tornata indietro a quel terribile giorno di settembre del 2001 che sconvolse il mondo e ferì a morte l'America. Qual è la percezione che si ha in Italia di questi eventi? Il senso di terrore che spaventa gli statunitensi è vivo anche da noi? Oppure stiamo sottovalutando il pericolo etichettandolo come lontano? Non è come da noi, dove un paio di turisti sbattuti in ginocchio davanti all'integralismo islamico e alla minaccia sanguinaria di Al-Qaeda sono per l'opinione pubblica italiana un fatto collaterale al panettone. Dopo il tentativo di tirare giù dal cielo di Natale sopra Detroit il 353 della Northwest, è meglio non farsi ingannare dal candore della neve, nel freddo punteggiato di festoni colorati, di canti natalizi, di sorrisi generosamente distribuiti col Merry Christmas e l'Happy New Year, di colorati pervasivi regali. Obama è alle Hawaii, ma i segnali che non pensi ad altro che a Umar Farouk Abdul Muttalab sono abbondanti. Obama tenne gran parte della sua campagna sulla promessa di restaurare il rispetto per i diritti individuali, lasciandosi dietro le spalle l'era che Bush stesso aveva chiamato della guerra contro il terrorismo. Insistette parecchio sulla scelta di conciliare sicurezza e libertà. Ben 3 dei suoi discorsi hanno avuto per tema la sicurezza nazionale. Tutti avevano lo stesso obiettivo: mettere d'accordo il diavolo con l'acqua santa. Lo scetticismo non è mancato, la discussione ha impegnato la gente e i commentatori, specialmente sul tema di Guantanamo e della scelta di processare gli attentatori dell'11 settembre a New York con un processo civile, ma non era niente in confronto alla determinazione di farla finita con la continua minaccia del terrorismo che ora permea tutto il discorso politico americano per la strada, sugli schermi TV, sui giornali. La gente si aspetta adesso che Obama dia qualche segnale di aver capito che il decennio del terrorismo non è finito e che la civiltà americana merita di essere difesa meglio, di più, fino in fondo, senza sperare che il fascino della parola possa incantare i serpenti decisi ad avvelenarla. In questi giorni l'America ha di nuovo percepito, a causa del terrorista nigeriano del Petna, l'esplosivo che stava per essere azionato e che era abbastanza per distruggere l'aereo, che la ferita purulenta deve essere curata radicalmente, che forse il pudore nell'ispezionare all'aeroporto persone peraltro già sulla lista è molto bello, ma mette a rischio troppe vite. Un analista di terrorismo dice: «Il profiling di chi proviene dal Medio Oriente è piuttosto preciso». Ma se poi un ragazzo ha la pelle nera, allora interviene il pudore di fargli troppe domande e inoltre in genere agli aeroporti si cerca di infastidire il meno possibile, di essere garbati fino al rischio. Il dilemma è grande, ma in questi giorni gli americani, a decine, sui giornali, alla TV, nelle chiacchiere di casa, chiedono alle autorità di cercare una strada precisa, quasi matematica, per combattere quello che è identificato ormai come un nemico che va semplicemente bloccato, prevenuto, cui non si deve concedere niente perché non chiede nessun beneficio concreto, vuole semplicemente la guerra. La cronista si è resa conto che la rabbia contro il terrorismo negli USA differisce completamente dalla nostra, incerta e pietistica. Qui il terrorismo è per tutti, a destra e a sinistra, un nemico che non può avere giustificazioni. La gente ride con i bambini, fa i pupazzi di neve, splendono le vetrine. La vacanza continua, ma le domande girano come eliche. L'onta di essere stati di nuovo minacciati da una morte priva di senso comune invade i discorsi della gente. Perché il terrorista non è stato fermato? Dov'è l'errore della sicurezza internazionale? Che cosa si deve fare adesso? Era nella lista nera dei sospettati. Il padre era andato a denunciarlo all'ambasciata americana in Nigeria. Era noto come un estremista e ancora. Che cosa succede a questi giovanotti che vengono a studiare da noi in Occidente, si laureano, imparano le nostre abitudini, il nostro modo di vita, mentre ci chiediamo come meglio integrarli? Cosa gli facciamo per umiliarli? Si chiede Christian Amanpour su CNN. E su Fox News John Gallagher si arrabbia contro la segretaria per la sicurezza Janet Napolitano, che certifica un po' scioccamente che il sistema funziona, chiedendole se non abbia mai pensato di sospettare di più, meglio di tutti, gli Ahmad e i Muhammad che prendono un volo americano. È la domanda della gente in gita di Natale. Cosa avvelena la mente tanto da rendere un ricco ragazzo nigeriano capace di sognare un'esplosione con centinaia di morti? Cosa c'è di sbagliato in loro? Cosa in noi? E poi, per colpa loro, quante nuove ore di coda ci aspettano negli aeroporti? Quali stupidi disagi per affrontare questo nemico strano che va ad allenarsi nello Yemen per poi ammazzarci a casa nostra? Non si potrà andare in bagno, non avremo coperte per la loro fissazione religiosa assassina. La gente in gita sui fuoristrada infangati, mentre beve il sidro fumante servito dai serissimi cittadini di Williamsburg in costume filologicamente perfetto, misura nell'allegria della gita natalizia fuori porta la capacità di reagire a una crisi economica che ancora segna il paese di case in vendita, di imprese chiuse visibili a occhio nudo. Di nuovo il giorno di Natale, come al tempo di Richard Colvin Reid, al secolo Abdul Rahem, lo shoe bomber del dicembre 2001, le renne, Babbo Natale, i bambini che tornano a casa in aereo, la vita, tutto, è appeso alla capacità di Umar Farouk di sgusciare dentro. Le orme del terrorismo tracciano larghe impronte scure sulla luminosa neve del Mall di Washington, colori di guerra sui suoi dintorni fitti di boschi che ornano le rive del Potomac. Gli americani non ci stanno. Qualsiasi cosa ne dica Obama. Avete ascoltato La follia made in Italy di minimizzare i rischi di Fiamma Nierenstein, pubblicato su Il Giornale di martedì 29 dicembre. Fine anno è tempo di bilanci, ma quali sono le donne che hanno lasciato il segno in questo 2009, le figure significative nella politica e nel costume italiano e internazionale? Quelle che hanno fatto la differenza, che hanno fatto colpo o semplicemente hanno fatto molto parlare di sé. Un viaggio da Michelle Obama a Noemi Letizia, passando per capi di governo come Angela Merkel, fino alla soubrette Elisabetta Canalis. Viva la differenza? Non tanto. Non quando si fanno bilanci annuali e bisogna segnalare le donne che hanno fatto colpo, hanno fatto opinione, hanno fatto qualcosa, come categoria a sé. È un segno di parità non raggiunta, però a essere ottimiste può essere uno stimolo per crearsi dei modelli e anche degli spauracchi. E questo è un catalogo molto incompleto di donne significative del 2009. Angela Merkel. Comunque la pensiate, è la donna dell'anno. In Italia la dismetterebbero come un'anziana massaia. In Germania ha rivinto le elezioni. In Europa sta riaffermando il peso politico-economico della Germania. Nell'Occidente ossessionato dalla bellezza, magrezza, giovinezza femminile, questa cinquantenne fuori forma è diventata un esempio di forza tranquilla. Non reagisce agli attacchi, sfianca paciosamente gli avversari, piace fuori dal suo paese e molto più del suo partito. 20 anni fa, la sera in cui cadde il muro, andò a farsi una sauna, poi una birra, poi sconfinò a Berlino Ovest. Ora lo fa tutti i giorni per governare. Michelle Obama. La spilungona che nella sua tesi a Princeton denunciò l'apartheid, di fatto nel suo campus elitario è diventata diva dell'elite mondiale. È parecchio di più, in realtà. È la più ascoltata da Barack Obama, l'attivista che parla nelle scuole per motivare i ragazzi svantaggiati, la prima nera alla Casa Bianca, e molto a suo agio nel ruolo. Veronica Lario. È figura cruciale della telenovela Berlusconian nazionale, ancora in corso. Ha lasciato il marito in primavera, accusandolo di eccessivo interesse per le altre donne, anche minorenni, e invitando i suoi amici a occuparsi di lui. È stata proclamata santa subito, vendevano anche le magliette, da alcuni, e insultata da altri. Ha poi chiesto alimenti sostanziosi. La sua storia appassiona tutti in Italia, dalle mogli sofferenti agli avvocati. Noemi Letizia. Ragazza dell'Interland napoletano, è diventata famosa perché alla sua festa dei 18 anni ha partecipato Berlusconi. Subito dopo, Veronica Lario ha chiesto la separazione. A fine dicembre ha debuttato sul web come cantante, simbolo nolente o magari volente delle giovinette italiche che vogliono farsi strada con la bellezza e i contatti importanti, mette un po' in imbarazzo alcune donne, francamente. Patrizia Daddario. Bella escort barese ha raccontato urbi et orbi la sua notte col premier a Palazzo Grazioli nel letto grande, quello di Putin. Ha pubblicato anche un libro. L'amico che la portò a Roma, Giampaolo Tarantini, è agli arresti domiciliari. L'avvocato del premier, Niccolò Ghedini, ha detto che Berlusconi ignorava il suo ruolo di prezzolata, era solo l'utilizzatore finale. La frase passerà alla storia. L'abitudine diffusa all'utilizzo resiste, pare. Lorella Zanardo. Pochi sanno che faccia abbia questa milanese. Moltissimi hanno visto in TV o più spesso online il suo documentario Il corpo delle donne, montaggio serrato e ossessivo di seminudità femminili nelle nostre TV. Umiliante, illuminante, importante. Questa era una parte dell'articolo di Maria Laura Rodotà da Angela Merkel alla Canalis, modelli e spauracchi al femminile, pubblicato su Il Corriere della Sera di martedì 29 dicembre. Domani potrete ascoltare il seguito.